Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Da quel giorno, da quel momento, mentre mi rompevo la tibia e ancora non sapevo che avrei sofferto molto, ho deciso che avrei dovuto possedere una Vespa 50L. Ciao a tutti, sono Francesco Dompieri, abito a Treviso, ho 31 anni e faccio il designer. Che cosa ci fa la gigantografia di un raviolo nella homepage di Radio24? Niente, se non che è il nuovo sito di Radio24 che ha una nuova conformazione, quindi ha una grande foto in apertura che racconta la notizia del giorno e diciamo ha un sacco di cose nuove in più, ha però dei punti fermi che sono quelli che permangono, che sono che se volete riascoltare il programma potete andare nella sezione podcast, anche se qualcuno mi scrive che ci sono dei problemi, ma è perché semplicemente, sapete, quando parte una roba si deve un attimo assestare, è partito 2 giorni fa e lo stiamo facendo riassestare, cioè, insomma lo stiamo rimettendo perfettamente in corsa. La novità vera del sito è che se voi avete una connessione internet flat, wifi o anche no con cavo, però insomma con una potenza media, potete ascoltarvi direttamente in streaming le puntate, sono in ordine temporale, quindi le scrollate tutte fino in fondo. Mi ero ripromesso di non usare mai la parola scrollare, Paolino, scusami. Me l'ha detta Tiziano prima, me l'ha detta qua per... Scrolla, cosa vuol dire scrollare? Vuol dire scorrere in basso col mouse. Insomma, scorrete in basso con il mouse e vi trovate tutte le puntate, ve le ascoltate direttamente, ripeto, in streaming senza scaricarvele. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, se non si era capito, io sono Matteo Caccia, sono le 16:08 minuti di un martedì 19 febbraio 2013. Oggi raccontiamo una storia che è la storia di Francesco, che ha a che fare con una Vespa L per la precisione. Se c'è qualche patito di moto d'epoca, la Vespa L è un Vespino, la 50L è un Vespino molto particolare con le leve dei freni a punta, col far rotondo, insomma oggi entriamo anche nel dettaglio, non è però solo una puntata per esperti, perché racconta di come in un momento di sofferenza, di dolore, perché lui ci fa un incidente con questa Vespa 50L che non è sua, capisce che sarà legato a quella cosa per tutta la vita e lo capisce in quel momento, nel momento di sofferenza. 349-238-6666, la sofferenza a cui siete affezionati, abbiamo immaginato di intitolare questa puntata, anche se così potrebbe deviare, potrebbe essere che uno ha un male a cui affeziona, cioè ha male all'orecchio e si è affezionato a quel male lì, ha male alla caviglia quando cambia il tempo e si è affezionato, no, è più che altro una sofferenza che vi ha legato indissolubilmente con quella cosa, con quella persona o con quel luogo. 349-238-6666, questa qua è la storia di Francesco, questa qua è la storia della sua Vespa 50L. Avevo 16 anni, frequentavo il liceo scientifico di Treviso, non l'unico, ma quello scientifico per davvero. L'altro era il collegio vescovile, quello che noi pensavamo fosse il rifugio dei figli di papà, quelli abbastanza danarosi da poterselo permettere, senza potersi invece permettere di riuscire a studiare con profitto nella nostra scuola. Panzane, ovviamente. Fatto sta che il liceo che frequentavo stava quasi dietro casa mia, in bici ci mettevo 10 minuti. Ogni giorno facevo la strada con dei compagni di classe. Generalmente io e un altro in bici e un terzo motorizzato. Oggi non so, ma negli anni 90 essere motorizzati per un adolescente era quasi meglio del sesso. O quantomeno era considerato un mezzo più o meno sicuro per arrivare al sesso. Panzane, ovviamente. Ad ogni modo, i miei genitori non volevano comprarmi il motorino. Avevano paura che succedesse qualcosa e io ogni giorno rompevo le palle al mio compagno di classe motorizzato finché lui non mi prestava la sua Vespa. Un vecchio Vespino 50L, scalcagnato e rigato, meravigliosa, sinuosa come una bella ragazza, rumorosa come una canzone rock, piccola, affidabile e con le marce. La cosa più importante della Vespa 50L, come di tutte le Vespe disegnate da Corradino d'Ascanio, è il fatto che, a differenza della Lambretta, abbia una scocca portante. La Lambretta invece era sostenuta da tubi e questa è una tecnica presa in prestito dall'aeronautica. Quel giorno di novembre era una bellissima giornata autunnale, sole, temperature mite, un po' d'aria ma piacevole. Inforco la Vespa e giro l'angolo verso il panificio. Ogni volta io cercavo di dare un senso a quel giro.

non ha proprio tantissimi capelli in testa, Francesco, però ha una bella barba folta, un maglione e una camicia a scacchi, e ha la faccia di uno che fa o il designer o l'oste. Vespa, sostantivo femminile. Nome commerciale di un motoscooter fabbricato in Italia in diverse cilindrate da 50 a 200 cm cubici dalla società Piaggio EC. Data 1950. 349-238-6666. Si parla di una piccola o grande sofferenza che vi ha reso indissolubilmente legati a qualcosa, che fosse un oggetto, che fosse un luogo o una persona. Qualcuno mi scrive: l'incredibile storia tra me e la mia Honda Ford 350 del 74, punto. Guarda, suona veramente incredibile la tua storia, però se ci dai qualche dettaglio in più, noi siamo più contenti. Vabbè, ormai su Nicolazzi si è aperto una... Nicolazzi era del Partito Socialdemocratico. Te lo dice uno di Galliate, che è vicino al mio paese, che l'ho anche votato. Qua, diciamo, ognuno confessa l'inconfessabile. 349-238-6666. Eccolo qua, Francesco, Padova. 1978. Finalmente acquisto il mio sogno. Una Vespa Primavera 125 ET3. Che per chi non la conoscesse sono quelle blu con una righina rossa più o meno, o azzurra. Boh, vabbè. Mi slogai un polso per portarla in camera al primo piano, ma al mattino al risveglio la sofferenza passò in un secondo. Sì, è un po' legata agli oggetti questa questione del avere sofferto ed averlo amato, però anche no, perché si parlava di fede calcistica prima nel caso di un tifoso juventino. Oppure, ad esempio, quando ho qualche giorno libero dalla scuola, faccio lo zaino, traccio un itinerario, trovo qualche amico, in realtà sono sempre quelli, tra parentesi, e andiamo sulle Dolomiti. Camminiamo, torno sempre stanco morto e spesso malato, ma particolarmente affezionato a quella sofferenza. Ci torno appena posso. Io ringrazio anche tutti quelli che scrivono sul profilo Twitter del programma, che è Voi Siete Qui R24, e in particolar modo Michele, che dice: vogliamo la playlist Spotify di Voi Siete Qui. Guarda, ragazzi, è vero che noi siamo proprio, cioè, corriamo tanto quanto corre il web e cerchiamo di stargli dietro, però siamo sempre 1, 2, 3, uno qui, gli altri due là, Paolino con le manine sul mixer, ci sono altri che ci danno una mano fuori. Si fa quel che si può, anche perché diciamo che l'80% del tempo Margherita Hina lo spende a caccia della gente che non si fa trovare, mandando mail e cercando di recuperare quelli che fanno, che poi alla fine fanno questo programma. Questo programma è un programma di storie. Ve lo chiedo ancora: quando ci mandate i racconti, quello che vi chiediamo è che non sia, guardate, davvero non ci interessa che sia scritto con uno stile particolare, non ci interessa che sia che sia scritto dalla mano di uno scrittore. Ci interessa che sia non troppo lungo, che non superi la pagina, pagina e mezzo, diciamo, e che sia un piccolo episodio della vostra vita, che abbia un inizio, uno sviluppo e una fine, esattamente come la storia di Francesco. Una cosa molto particolare, che in qualche modo racconta qualche cosa di voi, anche se non racconta, come dire, in maniera totale, voi ovviamente non vi racconta a 360 gradi, però a noi basta veramente un piccolo pezzo, e ogni giorno ci facciamo una puntata, ogni giorno ci raccontiamo una storia. 349-238-6666. Oggi Francesco, Simonetta mi scrive: io ho sempre desiderato una Vespa 50, i miei non hanno mai voluto, ora ho 38 anni e la storia di Francesco ha fatto risvegliare in me questa sofferenza. Simonetta, guarda, hai 38 anni, fai come Francesco, metti da parte un po' di soldi, se ce li hai spendili subito, se non ce li hai mettili da parte lentamente, vai sui siti delle moto usate, scopri un mondo e comprati questa Vespa 50. Guarda, mi prendo anche la responsabilità eventualmente di un polso slogato dovesse essere, Simonetta, sono qua e ne riparliamo. 349-238-6666. Non era un polso, ma era un femore, nel caso di Salvatore, che mi ha mandato questa mail oggi, che racconta come lui, che fa paracadutismo, che ha avuto un piccolo inconveniente durante un lancio di paracadutismo, e durante tutta la convalescenza e poi gli anni a seguire non ha fatto altro che voler tornare su quell'aereo e lanciarsi, e ovviamente ce l'ha fatta. Caro Matteo, la sofferenza non è piacevole, ma lascia segni indelebili che non riusciamo a dimenticare e che anzi proviamo piacere quasi nel frequentare. Io credo che la sofferenza sia come un assassino e i luoghi o le persone che l'hanno causata siano come il luogo del delitto, ed ecco perché continuiamo a desiderare di tornarci. Io anni fa mi sono fatto male facendo paracadutismo. Era uno dei miei primi lanci e sbagliai qualcosa nel governare il paracadute. Arrivai a terra troppo veloce e mi ruppi il femore. Feci 20 giorni di trazione e poi operazioni e menate varie. Ci misi circa 6 mesi a tornare a camminare regolarmente e la prima cosa che feci fu fissare la data di un nuovo lancio. E la ragione non è quella che si può immaginare del risalire subito a cavallo dopo la caduta per vincere la paura. No, la ragione era che quel lancio, quell'errore e probabilmente quella sofferenza avevano piantato un chiodo dritto nella mia testa e nella mia pancia. L'unica cosa a cui avevo pensato nei mesi di convalescenza era tornare a saltare. In quei 20 minuti in cui l'aereo saliva mentre mi preparavo al lancio, non pensavo a nulla se non a ripercorrere mentalmente ogni operazione che avrei dovuto compiere, da quando le mie mani avessero mollato l'aereo a quando fossi giunta a terra. Non permisi nemmeno un secondo alla paura di intrufolarsi nei miei pensieri. Dopo quel lancio ne feci un altro, e un altro ancora. Oggi sono istruttore di paracadute, anche se come primo lavoro sono un agente di commercio. Mi lancio quasi tutte le domeniche, soprattutto nella bella stagione, e spesso lo faccio in tandem, cioè legato con un imbrago assieme ad un'altra persona che effettua un lancio di prova. E mentre saliamo sull'aereo, di solito, per stemperare la tensione, racconto di quella gamba rotta per un errore nell'atterraggio e di come quel segno nel mio corpo mi abbia segnato la vita, che ora riesco ad immaginare lontana dall'aria e dal volo. Non sempre i miei compagni di volo sono entusiasti nel sentire questo mio racconto, ma è uno dei modi che ho per ricordarmi che le cose possono andare bene e andare male. E se vanno bene, di solito è meglio. Salvatore. Quattro punti a un dito tagliato con la motosega. Oggi, dopo 4 giorni, torno di nuovo a tagliare legna. Andrea da Macerata. Non c'entra con la sofferenza, con essere legati a qualcosa, però mi piaceva immaginare Andrea che con la sua motosega... Chi è che usa la motosega? Nicoletti. In un giorno di settembre, in vacanza alle Cinque Terre, mentre respiravo il mare e mi godevo il cielo blu, senza che io lo sapessi moriva mia nonna, una delle persone più importanti della mia vita, scrive Donata. Quando finisce l'estate ripenso a quei posti, e succede sempre, provo sì il dolore di un addio inaspettato, ma anche un grande senso di gratitudine per tutta la generosità e l'energia che in vita mia nonna mi ha dato. Questo è esattamente quello che ci stiamo raccontando dall'inizio della puntata, grazie alla storia di Francesco, della sua Vespa e di quel dolore che lo ha legato a quell'oggetto, in questo caso a un luogo e anche ad un ricordo, ovviamente. 349-238-6666, l'uomo di Gagliate mi scrive: io amavo la mia cagiva Aletta Elettra, ma i miei amici mi sfottevano tutti, ho cambiato gli amici. L'uomo di Gagliate è quello di prima, però guarda, la cagiva Aletta Elettra, io me la ricordo, l'aveva l'accensione elettronica, sembrava una specie di pony col motore, era veramente inguardabile. Ma chi se ne frega, sul sito di Radio 24, sul sito nuovo, trovate tutto quello che vi interessa, molto di più, ma tutto quello che ci raccontiamo qui. Andate sulla pagina di Voi Siete Qui e oltre all'ebook, se non l'avete scaricato, oltre alla foto di Francesco, che sembra un po' un designer, un po' un oste, trovate un PDF con l'elenco di quanti? 360 brani raccolti in un unico PDF. Se avete un dubbio su quale pezzo abbiamo andato in onda, certo dovete risalire alla puntata, però lì li trovate tutti, fate copia e incolla e andate su YouTube e vi ascoltate tutto. Grazie a Paolino Corleone, grazie a Tiziano Bonini e a Margherita Ina. La storia di oggi era la storia di Francesco e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Sono Gabriella Belloni, sono nata a Roma. La storia di domani è la mia e parla della mia fuga dall'Italia nel 1970. Questa è la mia storia e io sono qui.